La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, sono le 16.31, primi 59 secondi, quindi sono le 16.32, qui in diretta dal 24 gli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia e vi dice subito che la puntata è dedicata a informazioni di servizio, nel senso che con un collegamento da corrispondente, da un giornalista corrispondente da... segue le vicende europee, tenteremo di capire questo accordo che è maturato nell'ennesimo Eurovertice con la Turchia sui migranti, per capire A come funziona, B se può davvero funzionare, perché poi questo è il punto vero, e quindi ce lo faremo spiegare e tenteremo di capire se è una svolta, a furia di annunciare svolte da anni. La credibilità europea si è consumata, sapete, si sono aperte crisi dovunque, i muri si sono moltiplicate, le frontiere, tutti deridono, lo dico sempre, Trump, ma l'Europa si è portata avanti, quindi c'è poco da ridere. I paesi di Visegrad sono oramai un blocco a sé, centro-nord europei, la tensione nell'area balcanica è diventata fortissima, si innesta poi oltretutto su rapporti complicati tra Grecia e Turchia pluridecennali, l'Austria, la crisi in Germania per la Merkel, il voto di Alternative für Deutschland domenica scorsa, sappiamo, diamo per scontato tutto, quindi ci arriveremo tra pochissimo. Prima volevo solo di iniziare l'argomento, dirvi due cose su questa roba che mi ha molto colpito come giornalista economico finanziario, perché mi sento sempre più straniero in patria, e direte voi chi se ne frega, invece mica tanto, perché la piega che sta prendendo l'informazione economica e finanziaria italiana su tutti i temi che riguardano le banche, il deficit, il debito pubblico, il sistema Italia rispetto all'euroarea e l'Europa è per così dire univoca, cioè ormai si scatena un mainstream, un corrente generale di opinione comune, pensiero unico, che io non discuto, si possono avere idee diverse. Quello che discuto è il fatto che i giornalisti economici e finanziari abdichino al proprio mestiere, abdichino. Cioè, quando ho visto stamattina su tutti i giornali italiani sulla vicenda Popolare di Milano e Banco Popolare, sulla fusione increspata e problematica tra i due istituti, scatenarsi una lettura univoca: grazie alla BCE si creano problemi e salta la fusione. Io francamente devo dire la verità, chiedo a tutti i colleghi che scrivono e firmano e dicono anche in radio questa roba, se ne siano convinti, mi devono spiegare sulla base di che cosa, oppure se non ne sono convinti perché prendono questo drizzone. E ve lo spiego in due parole, perché la trasmissione non è su questo. Vi do appuntamento per domani mattina dalle 10 alle 12 sui conti della Belva, con il compare dei conti della Belva, come sempre, per approfondire ulteriormente la questione. Se noi serviamo a qualcosa come giornalisti economici e finanziari, serviamo a spiegare qualunque cosa poi voi pensiate di quello che dice la BCE, dobbiamo ricordarvi che se la fusione va avanti e si fa, la fusione che è stata voluta e indicata dai due istituti, dagli amministratori delegati dei due istituti, cioè dal Popolare di Milano e dal Banco Popolare, ecco, se questa fusione va avanti e si fa, diventa la terza banca italiana. Cioè diventa, in quanto terza banca italiana, e cioè per attivi e per totale dei loans, degli impieghi, dei prestiti, diventa una banca che automaticamente acquista la caratteristica di essere quella che in gergo tecnico si chiama una SIFI, cioè un intermediario bancario di rango sistemico, cioè il livello più elevato dei soggetti bancari sottoposti alla vigilanza comune, alla SSM, come si chiama in gergo tecnico. E noi giornalisti serviamo a spiegare appunto che, poiché questo significa la fusione, i criteri seguiti per i ratios patrimoniali e per i crediti deteriorati, per le SIFI, sono di standard più elevato, non sono quelli minimi sul CET1, cioè sul capitale immediatamente disponibile, e su una percentuale di copertura dei crediti deteriorati che serve a superare le analisi della vigilanza, cioè l'asset quality review, eccetera eccetera, come entrambe queste due banche italiane singolarmente e separatamente hanno fatto. Ma invece quello che succede di fronte a un'ipotesi di fusione è che quegli standard devono essere più elevati, nella fattispecie devono essere analoghi più o meno come ordine di sicurezza a quelli della SIFI, cioè della banca di rilievo sistemico più importante italiana, che è Banca Intesa. Questo i giornalisti economici e finanziari servono, se servono a qualcosa, prima di dare le opinioni. E quindi, invece di dirvi che una lettera che nessuno aveva letto perché non avevamo il testo, c'era dentro un aumento di capitale prescritto. Per formalizzare la richiesta di aumento di capitale, la BCE dovrebbe avere dei parametri che non tornano, e infatti non c'è la richiesta esplicita. C'è scritto invece che sui crediti deteriorati rispetto a quello che le due banche si proponevano di fare, diluito in anni la loro diminuzione, sulla governance e, terzo caso, sulla cessione di cespiti per il rafforzamento patrimoniale, manca ancora, proprio perché diventa una banca di rilievo sistemico europeo. Per dire due cifre, e poi finisco qua perché, ripeto, l'approfondiamo domani per chi fosse interessato, con i compari dei conti della Belva dalle 10 alle 12 come tutti sabato mattina, nella fusione di Banco Popolare e Popolare di Milano, la loro intenzione, secondo i piani industriali, è quella di partire da un totale delle coperture, sommate le coperture delle due banche rispetto ai non performing loans di entrambe, che sono solo 3.7 miliardi alla Popolare di Milano e sono 14.2 miliardi alla Banca Popolare, molti di più, di cui le preoccupazioni ovviamente dei dipendenti, dei sindacati alla Popolare di Milano, però si parte da una copertura, da un coverage del 35%, quello di Banca Intesa è del 55%. Capite? Per questo, di questo parla la lettera della BCE. Quindi dire che la fusione non si fa per colpa della BCE significa mentire, mentire sistematicamente. Poi, chiunque sia intenzionato ad alimentare questa relazione che è colpa degli altri se le nostre banche sono sottocapitalizzate, faccia. Però il nostro mestiere è ricordare che quella fusione implica asset di qualità migliore rispetto a quella minima che serve a superare gli esami. Non si fa una fusione per restare deboli sommandosi, se ne fa una quando si diventa sistemici a livello europeo per avere gli standard più elevati, perché quelle banche, se poi vanno in crisi, hanno un effetto transnazionale, come è evidente, e questo la vigilanza comune serve proprio a evitarlo. Ecco, questo è quello che è successo. Poi, se la fusione andrà avanti o non andrà avanti e con quali risposte alla richiesta di cespiti da cedere per rafforzare il patrimonio e di rafforzare subito dopo la fusione l'abbattimento degli NPL, concessione a soggetti specializzati e così via, questo è un altro paio di maniche. La BCE non ha violato le regole, non ha imposto aumenti di capitale a banche che avevano superato gli esami europei. Noi, io credo che serviamo a questo, perdonate se ve lo dico con tutta la passione, vi rinvio poi a Focus Economia e Sebastiano Barisoni, che so ha un'opinione diversa da me, io ho questa e finché ogni tanto, due volte al giorno sono a questi microfoni, mi batterò perché il nostro mestiere serva anche a ricordare queste informazioni basilari. Ma andiamo adesso, chiusa questa parentesi, ho preso l'appuntamento per domani mattina, per parlare con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e voi tutti, telefonateci, ve lo dico da adesso, soprattutto se siete azionisti poi del Popolare di Milano e del Banco Popolare, perché siamo interessati a capire che cosa avete capito voi e cosa vi aspettate. Ma chiusa parentesi, andiamo invece a tentare di capire che cosa davvero è stato raggiunto come accordo dai negoziatori europei con il governo turco su questo tentativo di, tra virgolette, rafforzare lo sforzo al fine di impedire che i migranti, i profughi e i 2,7 milioni di siriani che stanno in Turchia, non dimentichiamocelo, continuino a vedere nella traversata dell'Egeo per andare in Grecia lo sfogo necessario, il canale necessario per poi entrare in Europa. Allora, è con noi, io di questo lo ringrazio, il corrispondente per le faccende europee di Radio Radicale, che scrive anche oggi sul Foglio e che oggi, secondo me, stamattina proprio sul Foglio aveva scritto il più fantastico articolo per capire passo passo perché questo accordo che si stava profilando era in realtà tecnicamente, e lui spiegava a lungo come, assolutamente irrealizzabile. Tentiamo di capire, di farci spiegare se invece questo accordo, di cui oggi adesso sappiamo almeno i particolari e le linee di fondo, è realizzabile o meno. E con noi, appunto, lo ringrazio, David Carretta. Grazie di essere con noi, David. Grazie a voi. Allora, partiamo dalla prima domanda. Questo che hanno raggiunto è l'accordo che tu stamattina spiegavi come irrealizzabile o no? Sì, sì, è sempre lo stesso accordo. L'idea originale era una buona idea. Fondamentalmente dire ai rifugiati siriani: non salite sui gommoni, non attraversate l'Egeo dove rischiate di affogare o i vostri figli rischiano di affogare, non imboccate dunque la rotta dei Balcani dove rischiate di rimanere bloccati ai domeni dove la situazione è drammatica, vi veniamo a prendere noi con dei charter e vi portiamo direttamente in Europa, vi mettete insomma in fila. Per però realizzare questo, come dire, mettere ordine. Quindi tutto l'instradamento, per così dire, verso gli altri, verso i paesi europei, dovrebbe venire in Turchia. Esattamente, si chiama programma di reinsediamento, lo fa l'UNHCR, lo ha fatto con i Boat People del Vietnam, lo fa oggi con i siriani, ma con numeri ridicoli, con i somali, con gli eritrei. È una cosa che esiste, e l'idea che era venuta ad Angela Merkel per mettere un po' di ordine, non per risolvere questa crisi, perché la crisi è qui per durare, almeno fino a quando la guerra in Siria non sarà terminata. L'idea che era venuta da Angela Merkel su suggerimento di alcuni think tank, ma sostenuta anche per esempio dall'Economist di circa un mese fa, era appunto questo: mettiamo ordine. Per mettere ordine però bisogna anche bloccare le frontiere, bloccare in qualche modo i trafficanti, respingere dunque i migranti che arrivano sulle isole greche, altrimenti qualcuno sarà sempre incoraggiato a cercare di superare la fila in Turchia per prendere il famoso aereo per l'Europa. Il problema qual è stato? È che una volta arrivati a Bruxelles i turchi hanno fatto questa proposta insieme ad Angela Merkel il 7 di marzo in un precedente vertice, gli altri leader hanno dato più o meno un consenso, e poi si è aperta la trattativa a livello europeo sulle concessioni da fare ai turchi, sulla liberalizzazione dei visti, apertura di capitoli negoziali e soprattutto sulla questione della legalità internazionale di questo accordo. Per rispondere a questa esigenza, la legalità internazionale, rifiutare in qualche modo il principio del non respingimento, si è inventata una soluzione burocratica complessa che prevede che i siriani che arriveranno in Grecia a partire da lunedì prossimo potranno fare richiesta di asilo, la loro richiesta di asilo verrà analizzata da dei giudici, ne servono 300 sulle isole greche, una quantità enorme. Per ma chi ce li mette i 300 giudici? Solo per metterci la Grecia, poi con i soldi la europei. Grecia. La Grecia. Beh, gli europei dovrebbero inviare circa 3.000-4.000 funzionari di EASO, che è l'agenzia europea che si occupa dell'asilo, e di Frontex con le macchine per registrare i migranti e tutto quanto il resto. Noi i boots on the ground, gli stivali sul terreno, li inviamo in questo modo in Europa e nei paesi europei. Insomma, una macchina enorme per poi dire a questi stessi rifugiati siriani che sì, forse hanno diritto all'asilo, ma comunque vi rispediamo in Turchia in base al fatto che la Turchia verrà dichiarata dalla Grecia un paese sicuro, e c'è un'eccezione, una direttiva europea che dice che i rifugiati li puoi rispedire in un paese sicuro. Cosa significa tutto questo? Che la burocrazia, con ogni probabilità, la burocrazia europea, per rispettare al 100% la legalità internazionale, non farà funzionare questo piano, anche perché, e qui sta l'altro problema, forse quello più grave, l'incentivo che si dà ai siriani di per mettersi in fila ad aspettare l'aereo per l'Europa è assolutamente ridicolo. I numeri, i posti offerti per questo programma di reinsediamento, per andare a prendere i siriani direttamente in Turchia, sono 72.000. Quanti migranti sono arrivati in Grecia dall'inizio del 2015? Più di 1.000.000. Quanti siriani sono presenti in Turchia in questo momento? 2.700.000. Insomma, è un numero assolutamente inadeguato per far funzionare questo piano, che all'origine era in qualche modo l'unico modo per mettere ordine, per gestire, non per risolvere una crisi irrisolvibile. Ma io però, Davide, una cosa adesso devo chiedere, come se, a nome degli ascoltatori, ma se è così macro evidente dalla sproporzione delle cifre, cioè 72.000 posti offerti dall'Unione Europea a fronte delle cifre che abbiamo appena ricordato arrivate in Grecia e 2.700.000 che stanno in Turchia, e gestiti da una macchina burocratica di 4.000 burocrati mandati dall'Europa, 300 giudici messi a disposizione nelle isole antistanti alla Turchia dalla Grecia, numeri che dicono non può funzionare. Ma allora perché l'Unione Europea, a cominciare dai tedeschi che ne sono per così dire gli architetti di questa soluzione, dopo che avevano aperto le braccia a tutti, no? Gli architetti, perché devono fronteggiare innanzitutto la crisi politica anche a casa loro, le difficoltà politiche a casa loro e le reazioni di tutti gli altri paesi europei. Ma se si sa che non funziona, perché si fa l'accordo con la Turchia per questo? Io credo perché Angela Merkel, come giustamente ricordavi, ha bisogno in qualche modo di un alibi europeo per fronteggiare le sue difficoltà interne, dunque dire c'è una soluzione europea come questa, rispetto alla quale però gli altri europei non ci stanno, altrimenti sarebbero molti più di 72.000, e dunque si persegue questa via che rischia di con ogni probabilità sarà impraticabile. Sì, ma io quello che vedo è che è impraticabile, molto probabilmente risulterà impraticabile perché gli europei non si sono messi in condizione che funzioni, né per numero di accettati, tra virgolette, né per meccanismo burocratico. Nel frattempo noi stringiamo però un vincolo ulteriore con la Turchia ed è una cosa piena di conseguenze rispetto alla crisi siriana, ai rapporti con l'Egitto, al problema della Libia e così via. Questa domanda però la risposta ti chiedo di aspettare solo un minuto perché abbiamo l'informazione sulle strade e sulla circolazione. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, alcuni ascoltatori hanno mandato sms, chi di consenso, chi di critica, dicendo non puoi prima di Barisone dire queste cose, no, io la penso diversamente, grazie a quelli che fanno notare che le SIFI che ho citato sono quelle domestiche, quindi per questo ho citato Intesa, mentre la SIFI europea italiana è Unicredit per definizione, quindi questo correttissima questa osservazione e la preciso anch'io, ma i più di messaggi sono dopo aver ascoltato il nostro David Carretta su questo accordo. Perché tantissimi dicono: ma abbiamo capito che ci sono 3 miliardi alla Turchia, 3 miliardi allora per a fronte di un accordo che ci avete appena detto che non funziona per definizione? Davide, come la mettiamo? Questa è una domanda che mi sembra di buon senso. Ma i 3 miliardi sono poca cosa, fondamentalmente. È molto più significativo il fatto che l'Unione Europea si impegna a liberalizzare i visti per più di 70 milioni di turchi che potranno entrare liberamente nell'area Schengen a partire dal mese di giugno se io faccio una domanda, ma tu credi davvero che i paesi che stanno alzando i muri applicheranno questo accordo con la Turchia? Questo è l'impegno che stanno prendendo, se vogliono che la Turchia cooperi e blocchi le partenze e si riprenda i migranti illegali, questo dovranno fare a partire dal mese di giugno. Questo sta scritto. Se uno dei due non rispetta gli impegni, l'accordo salta, esatto. I rubinetti dei migranti si riapriranno. Questo è un dato. Il problema della Turchia, può pensare quel che si vuole di Recep Tayyip Erdogan, del suo governo, di come si comporta, eccetera, eccetera. Il problema della Turchia è che è il sintomo della debolezza europea. E anche un po' della codardia dei leader europei. Se posso tornare alla cifra di 72.000, il problema vero è che non ci sono leader pronti a dire: signori, noi dobbiamo prendere 200.000, 500.000, 40.000 rifugiati siriani per risolvere questa situazione o per gestirla meglio. È un po' come sulle banche, anziché andare davanti alla propria opinione pubblica, andare davanti ai propri cittadini a dire la verità, ci cerca di nascondere dietro le decisioni di Bruxelles. Aspetta un secondo, ci sono alcuni che dicono state sicuramente sbagliando sui 2.700.000 siriani in Turchia. Gli ascoltatori non credono che quella sia la cifra. Puoi un secondo ribadire che quella è la cifra della stima dei siriani in Turchia? Questa è la stima dell'UNHCR, stima anche del governo turco. È vero che non sono 2.700.000 nei campi, nei campi profughi, se non ricordo male, sono 250.000 circa. Gli altri sono nelle città, in condizioni ancora peggiori per certi aspetti. Io ricordo a chi ci ascolta che poi ce n'è oltre 1 milione in Giordania, per essere chiari, e in Libano centinaia di migliaia. Guardate che se ancora non ci è chiaro quali sono gli effetti di profughi della guerra terrificante siriana, sono questi, non è che... Comunque, ti ho interrotto, scusami. No, assolutamente questo. Poi il problema si risolve in Siria, non si risolve in Turchia, in Europa. E sui negoziati verso l'Europa, la formula per evitare alcuni veti di paesi europei che sembravano posti ieri, alla fine dell'accordo con la Turchia per la riapertura del negoziato e la sua accelerazione, qual è nell'accordo di oggi? L'accordo di oggi prevede fondamentalmente tre punti, i 3 miliardi di cui parlavi prima, la liberalizzazione dei visti, che era la cosa a cui tenevano di più i turchi, tanto è vero che il terzo punto controverso in termini di concessioni da parte dell'Europa, cioè l'apertura di 5 capitoli negoziali, si è risolto con la promessa di aprirne uno entro la fine del mese di giugno, ma i negoziati di adesione sono una cosa che prenderanno anni, se non sì. decenni, c'è il diritto di veto in qualsiasi momento di qualsiasi Stato membro, è più simbolico che altro. È più simbolico che altro. Però per Erdogan è significativo, perché naturalmente, siccome c'era chi diceva, lui riesce a spuntare la riapertura del dossier, se poi l'Europa gli di no, anche questo farà il suo gioco, secondo me, posso sbagliare. Sì, tranne un elemento, l'Europa sta perdendo una grande occasione, perché la Turchia non è così forte come può sembrare. La politica estera di Erdogan è andata a ramengo, se mi permetti l'espressione, con la Siria, ma non solo, anche con la Russia. Cercava alleanze alternative all'Europa, non le ha trovate. La situazione economica interna non è buona, tutt'altro. L'Unione Europea avrebbe potuto dire: benissimo, noi apriamo i due capitoli negoziali che riguardano la giustizia e i diritti umani. Esatto. In questo modo avrebbero potuto in qualche modo mettere Erdogan con le spalle al muro sui valori. Ma naturalmente non è quello che abbiamo fatto, anch'io avrei preferito. No, si aprirà un capitolo che riguarda il bilancio europeo. Sì, vabbè, bilancio europeo, però in un paese in cui si arrestano i giornalisti. Però, insomma, questo è l'accordo di oggi, cari ascoltatori. Vi garantisco, David Correcarretta è una fonte che non vi ha raccontato una cosa per l'altra. Questo è quello che è possibile capire, cioè un meccanismo che ci dà la matematica certezza di non essere in grado di risolvere il problema. Vedremo se, a fronte di questo accordo, che come avete capito è tutto per tentare di arginare la cosa tra Turchia e Grecia, il corridoio balcanico, i trafficanti poi di carne, per così dire, non si mettano a riaprire altri canali, quelli che ci riguardano direttamente come Italia, perché questo rischio esiste, è inutile che diciamo di no. E comunque io ringrazio molto David Carretta per questa sua descrizione e torno a darvi appuntamento, cari ascoltatori, per chi volesse, nella penultimo sabato prima del sabato di Pasqua, domani mattina dalle 10 alle 12 sui Conti della Belva. Vi dico che, oltre alla faccenda bancaria come al solito e gli aggiornamenti sulla crisi, parliamo anche di nord e sud, perché oggi sono usciti dei dati terrificanti per quello che mi riguarda, quindi ascoltatori del sud preparatevi, perché vi chiederemo di essere agguerriti domani, perché non se ne parla più di voi. E poi parleremo anche del referendum trivelle sì trivelle no, con il PD che ha 8 governatori per il no e la segreteria nazionale che dice no, ma non è importante non votare. A domani dalle 10 alle 12.